and very kind to me lately. Well, but I suppose it's a push for moving on. In time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Some tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom. Oh, and if I did, cost me everything I had. Well, I am looking for freedom, looking for freedom. Oh, and if I did, may you take everything I had. Eccoci nella trasmissione di Sapienza Clandestina, sono le 11:36 e adesso parliamo un po' di Quarticciolo, perché questa domenica si è tenuta la festa dei 2 anni della Palestra Popolare e insomma è stata un bel momento in cui ci siamo ritrovati tutti in piazzetta del Quarticciolo a festeggiare sia la palestra sia comunque tutto il mondo, la comunità che si è creata attorno sia ai ragazzi che partecipano ai corsi sportivi, sia ai genitori, sia ai fratelli, alle sorelle, insomma a tutta la comunità di Quarticciolo che si unisce anche poi in realtà parallelamente in un comitato facendo valere le proprie esigenze, le proprie necessità rispetto alla casa e quindi alla situazione disastrosa rispetto agli sfratti e alla poca considerazione delle condizioni reali non solo abitative ma anche economiche in generale di chi abita in quel quadrante. Comunque è stato un bel momento, si è parlato molto anche di sport popolare, della valenza che ha al di là della parte tecnica atletica, ma anche in generale più nel valore aggiunto sia del senso di gruppo che si crea durante l'allenamento, sia poi tutta la dimensione un po' più di livello alto che comunque deve mantenere sempre un certo grado di umiltà per essere valore aggiunto stesso. Cioè, ha parlato anche un pugile campione europeo di pugilato che ha presentato il suo libro. Siamo in collegamento noi con Fabrizio di Quarticciolo che si allena alla palestra. Fabrizio, ci senti? Sì, ciao, ecco. Buongiorno a tutti. Ciao Fabri, senti, dici un po' come è andata sia l'iniziativa stessa, quindi la giornata e quali sono i temi che sono usciti fuori interessanti anche rispetto a tutto il lavoro che avete fatto in questi 2 anni di palestra. Ok, l'iniziativa di domenica noi pensiamo che sia andata meravigliosamente bene e non ci aspettavamo, cioè anzi lo speravamo, questo afflusso di gente, ma come al solito ci stupiamo ogni volta perché è stata veramente tanta la partecipazione, è stata veramente tanta la gioia di vedere tutta quella gente, tutti quei bambini lì in piazza a divertirsi fondamentalmente solamente per una presentazione del libro e una cena popolare, poi per noi significa molto altro, ma era quello, era una presentazione di un campione europeo che ha richiamato, e non solo, che ha richiamato tanta gente, che è stata una presentazione strapartecipata e ci ha permesso di trattare dei temi che sono strettamente legati al mondo del pugilato, ma anche alla vita di tutti i giorni, soprattutto anche la vita di strada. Emanuele Brandamura è stato un pugile che nel suo percorso umano di crescita ha dovuto affrontare molti ostacoli, ed è un po' quello che noi viviamo tutti i giorni con i ragazzi che frequentano la palestra, ragazzi che devono affrontare il problema dell'abbandono scolastico, della situazione comunque familiare non troppo semplice, e quello che cerchiamo di spiegare loro è che le difficoltà nella vita ci sono, vanno affrontate, e se affrontate tutti insieme con una comunità alle spalle possono essere superate diciamo più agevolmente. E la festa è stata come al solito un punto di ritrovo per il quartiere, che da 3 anni ormai vede quel luogo vissuto anche troppo poco, perché diciamo non possiamo organizzare feste tutte le settimane, anche se lo vorremmo, ma quello che ci viene sempre detto da tutti gli abitanti del quartiere è: oh, quanto sono belle le feste, quanto ci piacerebbe che fosse sempre così. Noi quello che cerchiamo di riportare appunto con la palestra e con l'idea dello sport popolare è il concetto di aggregazione, di stare insieme, del fatto che appunto se le cose non le fai da te, nessuno le farà per te, per cui sappiamo benissimo l'assenza delle istituzioni, sappiamo benissimo che ci considerano abitanti di serie B, ma noi questo, come abbiamo ripetuto già domenica, a noi questo non importa, noi vogliamo fare, vogliamo attivarci per migliorare la nostra condizione di vita. Come possiamo farlo? Farlo con queste feste, con la palestra, con il comitato di quartiere, con gli appuntamenti al teatro, riportare appunto quel concetto di aggregazione che da un bel po' manca all'interno delle periferie. E la giornata di domenica è un altro punto a nostro favore, che ci permette di continuare serenamente nel nostro lavoro quotidiano all'interno della borgata del Quarticciolo. Bene, grazie Fabrizio, sicuramente è tutto, cioè tutto corrisponde al vero, come il momento in cui per chi c'era veramente si riconosce in quello che hai detto. Io c'ero e veramente questa sensazione l'ho avuta, e anche in senso di comunità è una cosa che si è trasmessa facilmente anche ai più piccoli, ed è stato veramente tangibile come fosse così. Quindi anche il connubio che c'è stato tra parlare della palestra e la concezione dello sport, le esigenze dei giovani, anche con magari un concerto che poteva essere insomma molto più vicino ai giovani, che non vogliamo fare. Sì, se posso vogliamo fare un attimo un giro di ringraziamenti, a partire da Michele e tutti i ragazzi di Sorvetti la Metropoli, che come al solito sono stati meravigliosi e sono una grande attrattiva per i giovani, no? Per i ragazzini, questa musica nuova trap, così, e ogni volta si esaltano. E poi ringraziare appunto i ragazzi che sono stati in cucina tutto il tempo, da Flavio, Benny, Simone, Valerio, poi Camilla, con l'aiuto del grande Gabriele, chef Rubio, che ha partecipato con tanta passione, ha fatto anche un giro per il quartiere dai ragazzi che purtroppo si trovano reclusi, e questo è stato un gesto veramente tanto apprezzato, perché sappiamo bene anche l'altra difficoltà del nostro quartiere. E poi niente, ringraziare Emanuele che ha fatto veramente una gran bella presentazione. Grande, infatti, grazie anche a te che ce ne hai parlato, e ovviamente vi auguriamo di continuare insomma ancora meglio degli anni passati, come state facendo, e che insomma la festa del prossimo anno sia ancora più partecipata e più insomma larga possibile rispetto a quello che è la situazione in quartiere, e anche che ovviamente il comitato parallelamente lavori bene sulle proprie esigenze, considerate insomma le ultime notizie che ci preoccupano un po' anche rispetto agli strati di questa settimana. Sì, infatti stiamo cercando di organizzare nuove iniziative, e anche quello è un fronte parallelo con il quale viaggiamo al di là della palestra, perché pensiamo che ci debba essere un gruppo, appunto un comitato, che risponda alle provocazioni che ci vengono fatte sia dall'ADER sia dal comune, e crediamo che appunto solamente insieme abbiamo una forza per poterli contrastare. La strada è lunga, la lotta anche, però il cammino è questo ed è quello giusto, e quindi niente, andiamo avanti verso i prossimi impegni. Io volevo ricordare un secondo, se me lo permettete, che certo, tra poco ritornerà Breno, maestro brasiliano, tra pochi giorni sarà qui, e verso il 21 ottobre arriveranno i suoi pugili. Sono ragazzi che sono partiti da una condizione un po' più cruenta della nostra, però sono storie di vita molto simili a quelle della borgata dove viviamo. Sono ragazzi che sono cresciuti nelle favelas e sono arrivati a disputare dei titoli importanti nel mondo della box, titoli nazionali, internazionali e addirittura alle Olimpiadi, che è la massima aspirazione per un pugile dilettante. Per cui sarà un altro motivo di crescita e sarà un altro modo per far vedere ai nostri ragazzetti che appunto lo sport popolare non è nulla di inferiore rispetto a chi ha una palestra con attrezzi di ultima generazione, ma l'importante è ciò che si insegna e quello che viene appreso, e tramite i ragazzi brasiliani possiamo apprendere tanto. Quindi niente, volevo ricordare a questo, faremo sicuramente un evento in piazza, un allenamento con i ragazzi brasiliani, quindi seguiteci sulle nostre pagine. Niente, ricorda qual è la pagina, così tutti possono la pagina su Facebook è Palestra Popolare Quarticciolo, quindi lo trovate benissimo lì, tutte le nostre informazioni. Va bene, grazie mille Fabri, noi ti sosteniamo qui dalla radio, in generale anche il lavoro che facciamo quotidiano, e parleremo delle vostre prossime iniziative anche qui in radio successivamente, se vi va, per diffondere il più possibile questo ottimo lavoro che state facendo. Più se ne parla meglio è. grazie mille, ti salutiamo, grazie, ciao, un abbraccio. Salutato adesso Fabrizio, lo ringraziamo sempre molto. Adesso noi ci lasciamo con un altro pochino di musica, e poi, dato che Fabrizio ci ha portato con tante buone notizie, noi continuiamo con un altro po' di buone notizie, parliamo un po' di cinema in sapienza, di quella bellissima organizzazione che avete visto tra i primi mesi di questo anno accademico e gli ultimi dello scorso. Quindi restate con noi e tra qualche minuto ci risentiamo.